Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci qua nuovamente in diretta dopo il GR di Radio Popolare, giovedì, giornata intensa per i contenuti. Beh, come spesso capita al Breakfast Club, due appuntamenti per questa sera, uno che riguarda gli amici del binario 69, compagni di strada per Radio Città Fujiko per il Breakfast Club. La serata sarà aperta con accoglienza e DJ set da me curato, in seguito il concerto di Panalake, di cui vi parlerò in maniera molto sintetica, visto anche i tempi. Intanto iniziamo con un po' di musica. L'accoglienza sarà con sonorità soul e acid jazz. Come vi ho detto, voi che conoscete le playlist del Breakfast Club ne siete già avvezzi, per cui insomma queste note ne avrete maniera di sentirne in maniera più estesa per la serata del binario. Si inizia verso le 19:30-20 con questa selezione musicale, come vi ho detto, per l'apertura in attesa del concerto. Parleremo dopo queste note anche del concerto, a tratti esoterico, a tratti misterioso, con un jazz di avanguardia dalla formazione Panalake, di cui parleremo tra poco. Intanto, a proposito delle note, invece, per il benvenuto alla serata del binario vi propongo Outsours per l'Ubiquity Record. A tra poco. Un'accoglienza in musica come il giovedì propone il binario, con acid jazz, soul, rare groove, dopodiché il concerto dalle 21:30. Beh, cosa troveremo? Un'ora di musica in cui ci si può imbattere in questo jazz di avanguardia, che è trasversale nel motivo di libera improvvisazione, dalla sensazione che ci porterà in un altrove esoterico, dal contenuto futurista. Quindi tribalismi, filastrocche, sonorità allo stesso tempo dal forbito linguaggio nella versione più moderna di un jazz interpretato da Panalake. Questo nome, tra l'altro, poi mi spiegheranno anche magari dei motivi di dialogo per la serata che ci attende, anche una sorta di traduzione. Il brano, qualche nota che vi propongo, Panalake con I figli di Poseidone, questo brano che ha dell'ambient, della droning music, della ricerca. Quindi arrivo verso le 19:30, un po' di musica, dalle 21 ci sarà live music, il concerto per la serata del binario, poi si chiuderà con note magari che inviteranno un po' al dance floor per concludere la serata al binario per oggi 7 marzo. Quindi domani sarò un pochettino intontito, come ben sapete mi tocca tirar tardi, sarà piacevole assolutamente, e infatti ne approfitto per ringraziare Luca e Roberto del binario 69. A tra poco. piccolo tratto di concerto, una sintesi delle sonorità, poi ovviamente come l'avanguardia e l'avant-jazz sarà imprevedibile per quanto riguarda gli aspetti di ascolto nel contesto del binario. Pana Lake dalle 21:30 circa, dopodiché a fine serata, prima ho proposto più un aspetto di accoglienza, si aprirà e per chi vuole ci sarà anche una sorta di dance floor curato da un DJ set portato da me. Vi aspetto questa sera al binario 69 dalle ore 19:30. La possibilità anche di un abbondante aperitivo, direi cena, ecco, perché sapete che il termine apericena non è che mi piaccia tantissimo. La possibilità di un convivio in un pubblico eterogeneo, un pubblico curioso e una proposta eterogenea musicalmente e culturalmente parlando. I Am the Black Gold of the Sun, New York and Soul, e poi avremo la seconda parte di Last Minute, sempre per la serata odierna. A tra poco.